Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e 9 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, chiaramente non parleremo dell'Italia, già molto ne abbiamo parlato ieri, se non per un'analisi di carattere economico, in attesa di capire come i diritti TV, qui riguarda la Lega Calcio, sospesa l'Assemblea sui diritti TV, i lavori riprenderanno domani mattina alle 9.30, però... Nel frattempo, oggettivamente, Sole 24 Ore, una bellissima analisi, fa notare come la crisi del calcio europeo, che si è verificata in questo primo girone dei mondiali, mi riferisco alla Spagna, all'Inghilterra e chiaramente anche all'Italia, si salvano Germania, Olanda e Francia, sia anche una crisi dei conti del calcio europeo nel mondo, la debacle del calcio europeo nel mondo, nonostante la supremazia economica fuori dal torneo anche Italia, dopo Spagna e Inghilterra, perché si va ad analizzare quelle che sono le entrate dei principali campionati europei, ma anche quello che è un dato di fatto obiettivamente incontrovertibile, cioè che anche l'asse calcistico, dopo quello diciamo produttivo, si sta spostando verso altri paesi. Parleremo di questo, parleremo anche dell'Assemblea regionale siciliana, fra poco vi dirò perché, che non ne vuole sapere di dare un tetto agli stipendi dei suoi consiglieri. Parleremo anche dell'Alitalia, perché oggi è arrivata una conferma, è una vicenda nella vicenda quella di Etihad all'Italia, però Alitalia e Etihad confermano di aver trovato un accordo sui termini e sulle condizioni dell'operazione e Abu Dhabi entrerà con il 49%. Per quello che riguarda la borsa, oggi di nuovo il Monte dei Paschi in evidenza, di nuovo pesantemente negativo, sospeso anche per eccessivo ribasso. Comunque il prezzo adesso è in calo del 19,70% a 1,50 euro per azione. Poi Saipem meno 3 come A2A e Autogrill, il 2,60 lo perde Buzzi Unicem, Prismian meno 2,20 come Enel Green Power, il 2% lo perde Mediolanum e anche Enel, Azimut meno 1,5 come Tenaris, Terna meno 1,30 come CNH Industrial e World Duty Free. Ancora, per quello che riguarda i titoli che vanno bene, Popolare di Milano più 6,10, Moncler più 1, Unipolsai più 0,85%, anche qui sul fronte BPM, lo scatto della Popolare di Milano è arrivato dopo che la Banca d'Italia ha disposto la rimozione integrale dei requisiti aggiuntivi patrimoniali, ne parleremo dopo. Il titolo ha iniziato a guadagnare già in mattinata e adesso più 6,20% verso la chiusura. 349-238-6666 per i vostri sms. Rapidamente adesso le altre notizie in breve. È chiaro che ci occuperemo anche di Europa, visto che domani e venerdì si svolge in Belgio a Ypres, città nota per chi ricorda la prima guerra mondiale per l'iprite, che era un gas, se non ricordo male, nervino, ma non è questo il motivo per cui si svolge lì. Si svolge il Consiglio europeo, che avrà al centro il tema delle nomine e delle possibili modifiche dei vincoli di stabilità, del patto di stabilità dopo l'apertura tedesca, la frenata dei falchi tedeschi ieri, insomma un patto di stabilità non da modificare ma da utilizzare nella sua componente meno rigida e più, come dicono alcuni, intelligente sulla flessibilità. 349-238-6666 per i vostri sms e poi la pagina di Focus Economia su Facebook. Siamo come sempre dall'economia internazionale, perché oggi il petrolio è sceso di nuovo sul Brent sotto quota 114 e anche il WTI a $106 il barile. Allora, che cosa sta succedendo? Le esportazioni del sud dell'Iraq, nonostante il disastro iracheno, le esportazioni, dicevo, dal sud dell'Iraq restano su livelli record. E visto che la maggior parte dei pozzi petroliferi iracheni sono poi al sud dell'Iraq, una zona ben lontana dall'insurrezione dei sunniti, i timori per ora almeno si allentano. Tra l'altro va anche detto che gli Stati Uniti hanno aperto all'export di petrolio greggio per la prima volta in 40 anni. Obama ha dato il via libera all'export di petrolio greggio, appunto, non raffinato. Parleremo di America nella seconda ora del programma, oltre che degli altri temi, anche perché al di là dell'esportazione di greggio non raffinato, oggi è uscito il dato sul primo trimestre del PIL americano e non è un buon dato, meno 2,9%, è rivista a ribasso la stima, era meno 1 nella prima lettura, sulla quale, ricorderemo, aveva pesato l'inverno rigido. La differenza però tra la prima e la seconda stima, tra la seconda e la terza, visto che siamo alla terza, è la più forte dal 1976. Il dato è obiettivamente sotto le attese, un PIL in calo del 2,9% in un trimestre. In America non si vedeva dal 2009. Infatti la Casa Bianca commenta la ripresa dalla grande recessione resta incompleta e il presidente americano Obama continuerà a fare il possibile per sostenerla. Dello stesso avviso anche Angela Merkel, che dice la crisi non è superata, occorre continuare a fare le riforme strutturali nell'Unione Europea. Così l'area riconquisterà la fiducia degli elettori se affronterà i problemi, appunto, del futuro. Barroso, presidente della Commissione Europea, dice a chi gli ha chiesto se ora si potrà sfruttare la flessibilità prevista dal patto: la Commissione non impone né flessibilità né sanzioni. Decide tutto l'Ecofin, ossia la riunione tra i ministri economico-finanziari dell'area euro, il Consiglio e il Consiglio europeo. Come del resto vengono decise in questi luoghi anche le raccomandazioni. Per quello che riguarda l'Italia, c'è un buon dato sulle vendite nel mese di aprile, più 2,6%. Attenzione, avverte l'Istat, però qui pesa l'effetto Pasqua. Il dato, infatti, come vendita al dettaglio è più forte dal 2011, mentre la cosa interessante è che dimostra quanto la crisi stia mordendo anche sui comportamenti, che ad andare particolarmente bene sono stati i discount, e quindi più 8,5% ad aprile. Bene anche i supermercati, i discount alimentari più 8,5%, dicevo, e i supermercati più 5%. E invece fermi i piccoli negozi, più 0,4%. La riforma della pubblica amministrazione è di 53 articoli, il decreto che avvia la riforma, ne abbiamo parlato a lungo nei giorni scorsi, pubblicato a mezzanotte in Gazzetta Ufficiale, anche le misure su agricoltura, ambiente e competitività. Confermato il fatto che la finestra per arrivare allo stop del trattamento in servizio per i magistrati resta al 31 dicembre 2015, è stata estesa a tutte le toghe, non solo quelle in posizione apicali. Resta invece per i militari l'istituto del richiamo in servizio, ovviamente non si capisce perché, ma andiamo avanti. Slitta dal 1 agosto al 1 settembre invece il taglio del 50% dei distacchi e dei permessi sindacali. Distacchi, aspettative, permessi sindacali nella pubblica amministrazione. Dicevo che arriveremo anche alla Sicilia, perché oggi dalla Sicilia abbiamo due notizie molto belle, nel senso che il Consiglio di Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana, il Parlamento siciliano, presieduto da Giovanni Ardizzone, ha fissato a 240.000 euro lordi il tetto degli stipendi del personale del Parlamento siciliano, dando mandato di procedere alle trattative con le organizzazioni. La cosa interessante è che il Consiglio ha respinto la proposta che arrivava dall'esponente del PD Anthony Barbagallo di fissare il tetto massimo a 160.000 euro, pari a quello quindi che l'Assemblea Regionale Siciliana ha votato per i dirigenti della Regione Siciliana. Di fronte a questa bocciatura, Barbagallo ha abbandonato la struttura del Consiglio di Presidenza. Io non so come in questo periodo l'Assemblea regionale siciliana, già nota, non questa magari, ma le precedenti, per non essere un mostro di efficienza e di gestione politica della regione, come possa giustificare che 160.000 euro lordi come stipendio del personale siano troppo poco e si debba andare a 240.000 euro lordi. Ma non è tanto populismo, è proprio è vivere in un altro mondo. E poi ci facciamo chiaramente bacchettare dagli stranieri, dai tedeschi, anche perché sempre all'Assemblea regionale siciliana spetta il poco invidiabile primato del burocrate più pagato probabilmente in tutta Italia, non solo in Sicilia. Lui si chiama Sebastiano Di Bella, guadagna 1.600 euro al giorno, è il segretario regionale dell'Assemblea regionale siciliana, parlamentino della Sicilia. Secondo i conti di Crocetta, che è appunto il governatore della Sicilia, mai smentiti dell'interessato, lo stipendio di Sebastiano Di Bella arriverebbe a 600.000 euro lordi l'anno. Crocetta, come ricordavamo, ha già imposto un tetto ai dirigenti della Regione Sicilia di 160.000 euro lordi l'anno, ma l'Assemblea Regionale Siciliana non ha accettato lo stesso tetto ai propri burocrati. E quindi Crocetta si è lamentato, ha detto: non posso dare un sostegno ai poveri siciliani perché non posso togliere un centesimo al Parlamento dei ricchi. Ma pensate che mentre i burocrati della regione Sicilia non accettano di pagare di avere uno stipendio massimo da 160.000 euro lordi e lo portano a 240.000 euro, mentre lì c'è chi, grazie all'anzianità e quello che vuoi, si becca 600.000 euro lordi l'anno per fare il segretario regionale dell'Assemblea regionale siciliana, con il massimo rispetto, uno stipendio del genere forse lo vorremmo vedere in chi opera a cuore aperto, in chi fa ricerca, in chi ha dei meriti pazzeschi, non in chi fa il segretario regionale dell'Assemblea regionale siciliana, che è un lavoro dignitosissimo, ma non da 600.000 euro, neanche da 240.000 euro. Detto questo, insomma, mentre l'Assemblea regionale si comporta come i baroni del secolo scorso, la Sicilia non è riuscita a trovare i fondi per garantire il reddito di cittadinanza a oltre 180 famiglie che vivono sotto la soglia di povertà. Complimenti, no? Mi sembra una logica molto da Marchese del Grillo. Ma sì, un bel applauso all'Assemblea regionale siciliana, glielo diamo. Fanno come Prandelli Abete i componenti dell'Assemblea regionale siciliana, cioè voglio dire, dopo quello che hanno deciso oggi e dopo i risultati fallimentari di questi anni, dopo che non sono riusciti a trovare nemmeno i soldi per le famiglie che vivono sotto la soglia di povertà, Sebastiano Di Bella, così mi becco un'altra querela. Ma io sto solo raccontando la verità, se poi deve essere smentita me lo smentisca. Non ha mai smentito Crocetta. Se lei guadagna 600.000 euro lordi l'anno, così la domanda se sia tutto giusto, e anche i burocrati che non possono avere un tetto sotto i 240.000 euro lordi l'anno, tutto normale per fare burocrate al Parlamento, all'Assemblea regionale siciliana? Ma chiudiamo, ma leviamo ste autonomie, ma riportiamo le regioni con la riforma, tutte le autonomie, lo sapete come la penso, anche quelle che funzionano, Alto Adige, Friuli in parte e Trentino, perché funzionano, per carità, ma i soldi li ricevono sempre dagli altri italiani. Leviamo ste autonomie e basta. Cioè, il debito italiano inizia a esplodere, andate a vedere i grafici alla mano, quando istituiamo le regioni, che invece che, grazie anche a quella riforma assurda del titolo quinto della Costituzione fatta dal PD, allora PD al governo, ma insomma, invece che ridurre, avere il trasferimento di poteri, hanno duplicato in salsa, diciamo, regionale, aumentando i conti e non certo l'efficienza, abbiamo visto, no? In questi, dal Piemonte al Lazio, la Sicilia, tutto stiamo raccontando. E da lì esplode il debito italiano e basta, diamo alle regioni, come previsto nella riforma, alcuni poteri, leviamo il resto e basta con questi parlamentini. E che si deve fare? No, non sono arrabbiato perché sì, sono dispiaciuto che l'Italia sia uscita, ma non è il motivo per cui mi incavolo sui conti dell'Assemblea Regionale Siciliana. Comunque andiamo all'Italia. C'è qualcuno che unisce lì Ipre, Liprite, ma no, lasciamo stare. Io azzererei tutto. Un Parlamento regionale che decide questa cosa, non so se si possa fare, io lo azzererei. Ci chiami Presidente Giovanni Ardizzone. All'Italia e Etihad confermano di aver trovato un accordo sui termini per le condizioni dell'operazione con cui la compagnia di Abu Dhabi entrerà con il 49% in Alitalia investendo 560 milioni di euro. Riduzione di circa un quinto dell'attuale organico con 2.250 esuberi su 12.000 addetti. Sebbene da Etihad non sia mai arrivato un commento preciso sull'ipotesi di un taglio del personale, le banche azioniste dovrebbero rinunciare a una parte dei crediti e convertire in azioni la parte rimanente. L'alleanza dovrebbe favorire gli scali di Fiumicino con un ingresso di Etihad anche in aeroporti di Roma e Milano Linate. Più incerte da quello che capiamo le prospettive di Malpensa. Bruxelles si è limitata a dire che le regole sono chiare, all'Italia deve rimanere nelle mani europee, così come il controllo, devono assicurare il rispetto delle norme. Lupi parla di passo avanti, nel giorno in cui viene sospesa invece la licenza, ma non c'entra con l'Italia, alla compagniera New Livingstone. L'ENAC ha sospeso dal prossimo 14 luglio la licenza della compagniera. Gianni Dragoni, buonasera. Buonasera. Con te non parleremo di calcio oggi, ne parliamo anche se tu sei un noto esperto dei conti del calcio italiano, ma ne parliamo più avanti. Allora, è tutto. Io ho sempre il terrore con l'Italia a parlare di vicenda che si sta chiudendo, perché è anni che l'Italia è una vicenda che si sta chiudendo, invece qua rischia di chiudersi l'Italia veramente. Però le conferme sembrano a questo punto essere più che un indizio. È una nuova conferma che le due compagnie vogliono unirsi, la dichiarazione congiunta, abbiamo trovato l'accordo sulle condizioni e i termini per far entrare Etihad al 49% di Alitalia, come hanno fatto oggi le due compagnie, è in realtà diciamo una dichiarazione congiunta che fa seguito a quando il consiglio di amministrazione dell'Alitalia due settimane fa, venerdì 13 giugno, aveva detto abbiamo accettato le condizioni di Etihad. Allora perché ripeterlo? Ma perché gli arabi volevano una dichiarazione congiunta impegnativa prima di passare a una fase che dovrebbe essere solo esecutiva, la stesura del contratto, che richiederà alcune settimane. Però perché dico dovrebbe? Perché in realtà due delle condizioni poste da Etihad e accettate dall'Italia richiedono però ancora un lavoro, una trattativa, e cioè sono, ne parliamo da tempo, che le banche accettino di cancellare i 560 milioni di crediti verso l'Italia e che, aspetto credo più delicato, più difficile, quello dei sindacati sugli esuberi, sui 2.251 esuberi che hai ricordato Etihad vuole escano dall'Italia. Questi due punti sono ancora aperti, quindi sono due condizioni che devono ancora essere realizzate. Ma allora fammi capire una cosa, perché insomma anche per noi diventa difficile. Quando leggiamo Alitalia e Etihad confermano di aver trovato un accordo sui termini e sulle condizioni dell'operazione, in un linguaggio normale vorrebbe dire ok, c'è l'accordo, ma tu ci stai dicendo che ci sono ancora dei punti. Ma non siamo in un linguaggio normale. Ecco, allora aiutaci con il linguaggio non normale. Sì, hai ragione. No, infatti è un po' stupefacente che venga annunciato un accordo quando in realtà ci sono delle parti, diciamo terze, che non hanno ancora aderito, perché l'accordo, o meglio le condizioni dell'accordo poste da Etihad e che all'Italia dice ok, le ho accettate, siamo d'accordo tra noi, richiedono che qualcun altro, sia le banche sia i sindacati, accettino diciamo dei tagli, nel primo caso un taglio dei debiti o dei crediti da parte bancaria, nel secondo un taglio del personale consistente 2.251 esuberi, che invece sono ancora oggetto di trattative aperte anche con, diciamo, senza dei passi avanti, per cui il vero accordo che le due compagnie si propongono come obiettivo finale di trovare entro luglio, quindi ancora un mese caldo per l'Italia, dipende da fattori esterni con cui ancora c'è una trattativa direi complicata. Allora, ho capito i punti. Secondo te sarà più facile arrivare a un accordo con le banche? Perché insomma le banche senza Etihad questi soldi rischiano di perderli e basta. Allora, nella vita tra perderli tutti oppure rinegoziare una parte, un'altra parte prendersi in azioni nella speranza che poi un domani le azioni valgano e crescano di valore, è meglio la seconda. Ma sarà più difficile il sì delle banche o il sì dei sindacati? Credo che la partita adesso più difficile sia quella sugli esuberi con i sindacati, proprio perché si tratta di persone che perderebbero il lavoro. Quindi ci sarà anche un incontro col governo, che ha detto genericamente di poter mettere a disposizione gli strumenti, però non è chiaro quali siano questi strumenti, anche perché si tratta di personale che non ha neanche un'età vicina a quella del pensionamento, prepensionamento, quindi non mi pare facile, però la trattativa, come ogni trattativa, può avere poi dei punti imprevedibili di accordo. Per il momento soprattutto la FILCGL dice: noi non vogliamo dei licenziamenti, perché la condizione posta da Etihad è che non siano ammortizzatori con esuberi temporanei, cioè come i contratti di solidarietà o cassa integrazione a rotazione, ma che siano esuberi definitivi. Questo è l'aspetto più doloroso. Quanto alle banche, io mi chiedo se le banche non chiederanno qualcosa in cambio, visto che le banche hanno visto più volte il governo su questo punto senza, diciamo, arrivare all'accordo definitivo. C'è da chiedersi se magari di fronte a una rinuncia a crediti, che probabilmente alla fine penso faranno, semmai devono decidere ancora bene come distribuire il sacrificio tra loro, le due grandi, Intesa Unicredit, e le due più piccole, Monte Paschi e Popolare Sondrio, non venga fuori che ottengano qualche contropartita magari legislativa, fiscale, che noi non vediamo subito, ma che potrebbe annidarsi nelle pieghe della trattativa. Sì, insomma, comunque è molto chiaro il tuo ragionamento, e la parte più delicata è quella, giustamente, perché è importante anche che le banche, nessuno ce l'ha con le banche, ci mancherebbe, però è chiaro che quella più delicata, non ci vuole un genio a capirlo, è proprio quella relativa agli esuberi, a come verranno gestite questi esuberi, perché come tu dicevi giustamente, molte di queste persone non sono nemmeno vicine all'età pensionabile, non puoi adottare banalmente il classico scivolo. Grazie a Gianni Dragoni del Sole 24 Ore. Non vi dico i commenti sull'Assemblea regionale siciliana. Ci arriviamo. Sulle autonomie, non ce l'ho con le autonomie, nel senso che fatte così come sono fatte, queste autonomie non servono più a nulla, a parte che secondo me sono anche antistoriche, perché aveva ragione De Gasperi dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma di cosa stiamo parlando sull'Alto Adige? Riconosciamo i gruppi linguistici, ma ci mancherebbe, ma altra cosa è tutti i soldi che ricevono i singoli cittadini delle regioni autonome dagli altri contribuenti italiani. Ripeto, so benissimo che in Alto Adige e in Trentino, un po' anche in Val d'Aosta e un po' anche in Friuli, i soldi vengono usati bene rispetto a quello che abbiamo visto capitare in Sardegna e in Sicilia, ma il punto è: perché devo pagare io? Cioè, non ha nessun senso, o se no rendiamo autonome tutte le regioni italiane, allora andiamo verso un federalismo anche fiscale, ma questo pastrocchio non ha senso. Con poi l'Assemblea regionale siciliana, che si ritiene un Parlamento e quindi deve avere gli stessi stipendi dei parlamentari, ma Parlamento da che? E non riesce neanche a ridurre lo stipendio dei suoi burocrati, a portare il tetto a 160.000 euro come richiesto, e resta a 260, ma di cosa stiamo parlando? Ma per fare cosa poi? Torniamo ai camminatori, dobbiamo raccontare tutto quello che abbiamo raccontato in 4 anni, 5 anni sulla regione Sicilia nel caso specifico, e sull'utilizzo dei soldi della regione Sicilia? Ma dove possiamo fare? E non facciamo, perché in buona sostanza purtroppo non è la natura, ma l'uomo. Dov'è? È nella testa, è più grave di queste piaghe, che veramente diffama la Sicilia e in particolare Palermo agli occhi del mondo. Lei ha già capito, è inutile che io gliela dica, mi vergogno a dirlo, è il traffico, troppe macchine, è un traffico tentacolare, vorticoso, che ci impedisce di vivere e ci vanno nemici, famiglia contro famiglia. Allora, vediamo se esco da questa giungla che è la mia testa, come dice questa nostra canzone. Allora, rispetto a 1 miliardo e 254 milioni di giacenze di cassa alla Regione Sicilia al 31 gennaio, 1 miliardo e 250 milioni, già a marzo erano scesi a 650 milioni, quindi i soldi si stanno consumando. Lo denuncia la Corte dei Conti, dice la situazione della Cassa Regionale di Sicilia, seppur migliorata rispetto a fine 2013, continua a registrare un trend discendente. Da 1,2 miliardi sono scesi in cassa, adesso hanno 650 milioni a marzo. Continua la Corte dei Conti nella sua relazione. La Regione Sicilia è quella che detiene il maggior numero di partecipazioni societarie, quindi società partecipate dalla Regione, ed in particolare di quelle totalmente pubbliche, nonché il primato per quanto riguarda i costi del personale. E stando ai dati diffusi in allegato alla relazione della Corte dei Conti, su 8.600 dipendenti di società partecipate dalle Regioni, che già sono tanti, ben 3.300 lavoro in Sicilia, cioè su 8.006, 3.003 sono in Sicilia. Vado avanti. Allora, stando sempre alla Corte dei Conti, nel 2013 i 12 gruppi parlamentari dell'Assemblea Regionale Siciliana hanno speso 1.500.000 euro di spese contestate. Ci sono 4 gruppi virtuosi a cui la Corte dei Conti non ha contestato nulla, cioè si chiama in linguaggio tecnico, ha parificato il rendiconto. Sono il Movimento 5 Stelle, la lista Il Megafono, la lista Musumeci e il gruppo Misto. La contestazione più alta riguarda il gruppo del PDL, la cui spesa irregolare, secondo la Corte dei Conti, non secondo noi, è di 656.000 euro per il 2013. Sono le famose spese che non sono considerate giustificate, ne abbiamo raccontate purtroppo per anni. Segue il Movimento per l'Autonomia PDS con 550.000 euro non giustificati. Il Grande Sud con 109.000 euro. Il PID, Cantiere Popolare con 107.000 euro. L'UDC con 40.000, i Democratici Riformisti per la Sicilia con 3.000 euro, al PD vengono contestati 1.500 euro di spese appunto non giustificate. Complessivamente 1.500.000. Allora tu dici, no? Con un'assemblea regionale così saranno vista l'aria che tira, avranno capito. No, l'hanno capito perfino Prandelli e Abete. No, non è vero, no, perché diciamo lo stretto di Messina è lunghissimo, non è stretto. Perché lo dico? Perché oggi raccontavamo di come il Consiglio della Presidenza dell'Assemblea Regionale Siciliana, presieduto da Giovanni Ardizzone, ha detto no, 160.000 euro di tetto massimo per i dirigenti della Regione sono troppo pochi, si rischia la fame con 160.000 euro lordi, e quindi il tetto massimo deve essere portato a 240.000 euro. Nel giorno in cui i giornali, l'abbiamo raccontato anche noi, raccontano di uno dei dirigenti, il segretario regionale dell'Assemblea Regionale Siciliana, che guadagna 600.000 euro lordi l'anno, e tra l'altro la Sicilia non è riuscita a trovare i fondi, come ricordavamo prima, per garantire il reddito di cittadinanza a 180.000 famiglie che vivono al di sotto della soglia di povertà. Nino Amadore del Sole 24 Ore in collegamento con Palermo, buonasera. Allora, fammi capire, è un tentativo di suicidio, è un menefreghismo perché tanto sei regione autonoma, è così un altro pianeta, cioè come cavolo è venuto in mente di dire che 160.000 euro sono troppo pochi per i dirigenti dell'Assemblea Regionale Siciliana, agli stipendi del personale del Parlamento siciliano devono essere minimo 2,40, massimo 2,40, scusami. Ma guarda, allora, a me sembra onestamente il tentativo di mantenere vecchi privilegi. No, perché, no, breaking news, che stai dicendo? Prego. La questione va avanti ormai qui come dibattito pubblico da un po' di tempo, sicuramente da qualche settimana. Quello che è stato fatto per i dirigenti della regione, cioè per i dirigenti dell'apparato amministrativo della regione, con una mini manovra che è stata approvata nelle scorse settimane, si pensava potesse essere fatto anche per i dipendenti dell'Assemblea regionale, che ricordo è equiparata al Senato della Repubblica. Sì, pure, già da lì nasce il tutto, perché vabbè. Però ecco. Allora, certo, vai. Lì siamo diciamo nell'ambito della, come dire, non del privilegio, ma oltre il privilegio, considerato che la regione, come tu ricordavi benissimo, è sull'orlo della bancarotta, ricordiamo anche i residui attivi, cioè tutta una vicenda che rischia di mandare al collasso una regione di 5 milioni di abitanti. Non ci si arrende al fatto che i soldi sono finiti e che dunque non è più possibile mantenere un livello di retribuzione per i dipendenti dell'ARS che francamente appare non eccessivo, molto. No, ma anche perché il tetto da 160.000 euro lordi, se ho ben capito, è già passato per i dirigenti, giusto? Per i dirigenti della regione, l'assemblea regionale, come mentre l'assemblea regionale è come dire, insomma, è che fosse passato per Palazzo Chigi, ma non per Come se fosse passato per tutti i ministeri, ma non per il Parlamento. Ma non per il Parlamento, hai ragione. Perché appunto la regione è la parte, diciamo, esecutiva e operativa, e poi c'è il Parlamento. Il Parlamento non ne vuol sapere, utilissimo il Parlamento della Regione Sicilia, perché voglio dire, è utilissimo, ci mancherebbe. Scommetto che senza quel Parlamento lì, se fosse mai commissariata la regione, non potremmo più andare avanti, in questo si bloccherebbe l'economia mondiale, il traffico mediterraneo. Ma è appunto consapevoli della centralità del loro ruolo, dicono no, da noi il tetto deve essere messo a 240.000 euro, capito bene? Vorrei raccontare una cosa. Si discute molto di blocco della spesa dei fondi europei e si discute molto del fatto che questa spesa va a rilento. Il Parlamento regionale, diciamo 3-4 anni fa, ha approvato una norma che impone all'apparato amministrativo di trasmettere alle commissioni i bandi per l'approvazione da parte dei politici, che è un passaggio ulteriore assolutamente inutile, che dà ai politici un potere di interdizione su bandi che sono di competenza amministrativa. Quando poi si discute di questi temi viene da ridere. Hai ragione, perché un passaggio ulteriore in cui il politico può mettere un potere di veto, diciamo così, in tradizione su dei bandi, già non riescono a prenderli questi soldi europei. Se metti un passaggio ulteriore, poi non oso pensare, io imparto sempre dall'idea che il politico, se mette un potere di tradizione, lo faccia per motivi alti, non bassi. Alti, altissimi. Alti, non bassi, non di clientele, non di mafia, non di... Assolutamente no. Però anche se fossero motivi alti, sempre motivi sbagliati. Da questo punto di vista ho visto che poi l'esponente del PD Barbagallo se n'è andato dalla seduta del Consiglio di Presidenza, dopodiché la cosa passerà, è già passata, cioè a questo punto. Ma passando in Consiglio di Presidenza con una maggioranza mi pare abbastanza ampia, è difficile che poi non passi alla prova del voto. Tutti in Sicilia, lo dico i milioni di disoccupati italiani, se avete problemi sappiate che lì, se lavori come dipendente del parlamentino siciliano, il tuo tetto massimo arriva fino a 240.000 euro. Nino Amadore, hai tutta la mia solidarietà, così come c'erano tutti i siciliani, la stragrande maggioranza, non solo onesti, che lavorano, che sono in difficoltà, che sono disoccupati. Diciamo che la mia solidarietà non va a un piccolo pezzo della Sicilia, e non solo quella mafiosa, ma anche chi ma io dico, ma il presidente Ardizione non ha niente, Giovanni Ardizione non ha avuto nulla da dire su questo, che è il presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana. Ma guarda, il presidente esprime sostanzialmente quello che è un sentimento complessivo dell'Assemblea, perché il presidente presiede un corpo legislativo, perché tale è, e dunque esprime questo tipo di umori all'interno di una macchina che è una macchina abbastanza complessa. Sta di fatto che a me mi ha colpito molto il comunicato della presidenza, in cui si sottolinea nel rispetto delle norme costituzionali dei tetti stabiliti dal governo nazionale. Ora io credo che alcune cose non non siano un problema di rispetto di norme, ma un problema di rispetto di coscienza. Cioè, io, bisogna tenere conto che qui c'è una disoccupazione giovanile che ormai sfiora il 55%, c'è una disoccupazione che è oltre il 20%, e dunque una redistribuzione del reddito complessivo nella regione non è necessaria, è un obbligo morale. Minuti. Allora arriviamo alla borsa, un po' di pazienza, tanto oggi le notizie sono la Pop Milano più 6,20%, Monte dei Paschi meno 20%, poi il resto diciamo sta nel mezzo. Però Marco Bellinazzo, che ieri ci ha intrattenuto sui diritti, non si è nulla di fatto tra Mediaset e Sky sui diritti del calcio, tutto rimandato domani. Oggi in realtà sul Sole 24 Ore c'è una bellissima analisi a pagina 21 sulla debacle del calcio europeo nel mondo, ma non è un'analisi di dati calcistici, ma sulla correlazione che c'è tra quanto incassano le varie leghe, Serie A, Bundesliga, Premier League, la Liga spagnola, e i risultati che stanno avendo anche molte di queste squadre, perché non sfugge a nessuno che la Germania, la Francia, l'Olanda ce l'hanno fatta, Spagna, Inghilterra e Italia chiaramente fuori. Marco. Beh, direi che ormai quando si parla di calcio si parla anche la Grecia agli ottavi, avete ragione, ma non è che c'è arrivato, non è una correlazione, diciamo, non è una legge della fisica, stiamo solo dicendo che la variabile economica esiste, perché il declino, come adesso ci spiega Bellinazzo, del nostro calcio, lasciamo stare poi i risultati, però è un declino anche economico rispetto a quando noi incassavamo come Lega A, come Serie A, scusami, alla pari delle leghe più forti del paese. Sì, c'è stato, dell'Europa. C'è stato in questi anni, in questi 10 anni, un calo, diciamo, strutturale del calcio italiano che va in parallelo col calo che ha avuto l'economia del paese. E se noi andassimo a guardare appunto i fatturati delle leghe della Serie A rispetto alle principali leghe europee soltanto 5 anni fa, di 6 anni fa, noteremo come la Serie A era al secondo posto, era appena dietro la Premier League, ma era sicuramente avanti alla Bundesliga, alla Liga Spagnola e alla Liga 1. Ecco, nel 2012-2013 ci troviamo invece in una situazione in cui la Premier League ormai fattura quasi 3 miliardi di euro all'anno, la Bundesliga, cioè, oltre 2 miliardi, sì. La Liga Spagnola 1 miliardo e 8, noi siamo al quarto posto a 1 miliardo e 6, ma siamo ormai incalzati dalla Ligue 1 francese che ha 1 miliardo e 3, forte degli investimenti qatarioti e di una ristrutturazione degli stadi che in Francia stanno facendo, perché nel 2016 gli europei si giocano proprio in Francia. Ecco, però ci possono essere, detta così, ci possono essere vari motivi per cui la nostra Lega incassa di meno. Voglio dire, se tu per esempio non arrivi in Champions, non arrivi in finale, non arrivi in semifinale, cioè è chiaro che hai meno diritti, cioè ci possono essere anche dei motivi non dipendenti, oppure voi avete notato una correlazione abbastanza stretta anche tra quanto un incassa come Lega principale, come campionato principale, e poi gli investimenti che questi, e gli investimenti fatti nel calcio. No, se noi guardiamo ai risultati sportivi, per esempio alle presenze nelle semifinali Champions delle squadre italiane, se togliamo l'Inter nel 2010, notiamo come in coincidenza con questo declino economico c'è stato anche un declino, diciamo, sportivo. Non a caso abbiamo perso per esempio un posto in Champions, ne avevamo 4. Invece la Germania ci ha superato nel ranking UEFA e abbiamo quindi 3 posti, e questo significa in maniera molto secca 30-35 milioni in meno all'anno dalla Champions. Cioè c'è stata una mancanza di prospettiva nella gestione manageriale dei club che ha comportato il fatto che non sono stati fatti quegli investimenti che altrove sono stati fatti. Quindi da un lato c'è una responsabilità dei club, tu parlavi degli stati, del merchandising, dell'ingresso di capitali anche dal Qatar o da altri, di capitali freschi che ti permettono di... C'è stato un errore anche a livello di gestione, diciamo, della Lega Calcio, mi spiego. Se tu puoi anche incassare di più, se però questi soldi li prendi e li utilizzi, è il tuo diritto, ci mancherebbe, non per farti un vivaio, ma per comprarti il giocatore a botte di decine di milioni che è sulla cresta dell'onda, magari per 2 o 3 anni, oddio, insomma, sì, ne avrà un vantaggio indubbio la tua squadra, meno il calcio nazionale, o no? Assolutamente, perché cosa si è fatto? ci si è accontentati di 1,5 miliardi che arrivano dai diritti TV. Non a caso, se tu guardi il fatturato completo, 2/3 in Italia arrivano dai diritti TV, nelle altre reghe più virtuose solo 1/3. E 9 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, a parte qualche siciliano che dice sono favorevole alla rimozione delle autonomie regionali perché finché prendono i soldi fanno quello che vogliono, c'è qualcuno che confonde la critica fatta all'incapacità dell'Assemblea regionale siciliana, del Parlamentino siciliano, di ridursi gli stipendi, meno di 240 non si riesce a vivere, 1000 euro all'anno, con una critica alla Sicilia. Mi scrivete: la Sicilia è bellissima, ottimo cibo, mare stupendo, paesaggi incantevoli, Barisoni ci sei mai stato? Allora, non penso che sia una notizia rilevante, ci sono stato decine di volte, confermo che è una regione anche bellissima, con dell'ottimo cibo, del mare stupendo, di paesaggi incantevoli, anche molto rovinata dall'abusivismo edilizio, vedi le stracitate, ma non solo, Valle dei Templi e quello che accade lì attorno, per cui sì, confermo che la conosco bene nelle sue bellezze e nelle sue bruttezze, ma qui non stiamo ragionando dell'attrattività turistica della regione Sicilia, stiamo ragionando dell'incapacità dell'Assemblea regionale siciliana di capire in che mondo stiamo vivendo prima che glielo facciano capire, diciamo, in altro modo. Allora, e così come non ce l'ho con la Liguria, quando racconto le notizie della Liguria, oggi la Guardia di Finanza, poco fa è arrivata la notizia, ha notificato ai consiglieri regionali della Liguria Marilyn Fusco e Marushka Piredda, tutti con nomi così, l'ordinanza di custodia cautelare concessa dal GIP nell'ambito delle inchieste sulle spese pazze dell'ex gruppo dell'Italia dei Valori. Le due consigliere, già indagate nell'inchiesta, sono adesso ai domiciliari, l'accusa di peculato e l'arresto si è reso necessario per il pericolo di reiterazione del reato. Vabbè, vorrei chiudere con Marco invece Bellinazzo sulla parte del calcio. Molti ci fanno notare che anche l'Inghilterra, pur avendo una league così ricca, è stata eliminata. Però nessuno ha detto che, insomma, si debba avere un alto fatturato e budget per passare i mondiali. Si è solo detto che c'è una coincidenza tra quanto, diciamo, i club hanno incassato e la Lega, la Serie A ha incassato in questi anni, è un obiettivo declino dei risultati italiani. Facevo però prima del GR24 la battuta: sì, ma tu puoi anche incassare decine di milioni di euro in più se poi non coltivi vivai e vai a comprarti sul mercato il Messi di turno, resta poco sul fronte, diciamo, dell'indotto, chiamiamolo così, per il calcio nazionale. Sì, il problema è stato quello: l'Italia ha avuto tanti soldi dalle TV, si è baloccata in questi grandi incassi, quindi non ha fatto investimenti per esempio sugli stadi o per esempio sull'area commerciale, aprendo uffici in Asia come ha fatto per esempio appunto il Manchester United. Viceversa è andata alla ricerca dei colpi, dei campioni, perché con questo si pensava appunto a riempire gli stadi e a riempire, diciamo, le casse e le società con i diritti TV, con la conseguenza che, non avendo aumentato gli altri ricavi, le altre leghe lo hanno fatto, sono diventate più ricche e sono le altre leghe che ora si comprano quei campioni, per cui la Serie A ha sempre meno attrattività. Questo alla lunga ti porta ad avere meno risorse e pensa che in media, insomma, nelle leghe europee si spende circa il 60% in ingaggi del fatturato. In Italia non siamo mai riusciti a scendere sotto il 75%, cioè tre quarti del fatturato se ne vanno in ingaggi e tasse per i calciatori, perché ricordiamo che le società pagano anche le imposte per i calciatori. E quindi questo ha creato una situazione per cui in realtà non ci sono nemmeno più soldi per investire nei vivai, ma questa è l'ultima spiaggia per il calcio italiano. Ora ci sarà il nuovo presidente della federazione, c'è la Lega che a un certo punto dovrà smettere di litigare, vediamo domani come andrà con i diritti TV, ma in ogni caso si dovrà fare un piano industriale, e non uso a caso questa parola, un nuovo piano industriale che si basi effettivamente sulla possibilità di investire sui vivai, investire sulle infrastrutture, perché sembrerà strano in Italia, ma le società di calcio sono aziende che, se gestite bene, possono anche produrre utili. Sì, devo dire che Manchester United è una società però molto indebitata, se non ricordo male. Sì, è molto indebitata, ma ha anche quasi 450 milioni di fatturato. In Italia la squadra che ha maggior fatturato è la Juventus, arriva a 250-260, e quindi diciamo può tranquillamente pagare l'indebitamento, quel debito, assolutamente. Grazie, importante ragionamento su quanto tu spenda per gli ingaggi, quanto però tu riesca a ottenere da, perché si parla degli stadi, perché gli stadi poi sono un elemento anche che ti porta cassa nella gestione dello stadio, il merchandising, come abbiamo detto più volte, gli investitori stranieri, insomma è la capacità di diventare attrattivi. Marco, dimmi una battuta. Assolutamente, tu pensa che le migliori squadre europee incassano dal match day, cioè da tutto quello che c'è attorno alla partita, circa 120-130 milioni all'anno. In Italia la squadra che fa meglio è la Juventus, che ha l'unico stadio di proprietà, la Juventus Stadium, ma si ferma a 40 milioni. Questo ti dà il segnale del gap che si sta aprendo tra il calcio italiano e il calcio europeo, e per quello parlavo di un piano industriale, di politiche industriali, quindi sarebbe bene, come dire, fare questo salto di qualità, perché poi la violenza negli stadi e purtroppo anche fuori dagli stadi, l'incapacità di essere attrattivi, l'incapacità di, per esempio, di riportare le famiglie allo stadio, sono una logica conseguenza di questa incapacità di gestire dal punto di vista imprenditoriale le società di calcio, e l'aspetto sportivo è sempre più una conseguenza diretta di questa incapacità. Poi certo, le partite le puoi perdere o vincere, ma ci vuole organizzazione. Grazie, adesso passiamo, cambiamo tema, andiamo alla borsa e poi agli Stati Uniti, al dato AME che ha gelato molte attese sul PIL americano. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Grazie intanto Marco Bellinazzi. Dicevamo di Milano, meno 0,80% in linea con Francoforte, meno 0,70%, meglio di Parigi che ha perso invece l'1,30%, Londra meno 0,70%, l'America più 0,10%. Due i titoli oggi, secondo me, che meritano un commento più di altri: la Popolare di Milano più 6,20%, il Monte dei Paschi meno 20%. Allora, come ogni tanto facciamo, usiamo gli operatori del mercato per fare commento di borsa. Mi sono legato di Nexam Partners, Carlo Gentili, buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Dicevo, Monte dei Paschi, oggi abbiamo visto esercitare i diritti di opzione dell'aumento di capitale della banca, mentre sulla Popolare di Milano la Banca d'Italia ha disposto la rimozione integrale dei requisiti aggiuntivi patrimoniali. Chiariamo i due temi, visto che sono i due casi di borsa in positivo e in negativo. Monte dei Paschi, se vuole, per primo, e poi Popolare di Milano. Ma Monte dei Paschi mi sembra di poter dire che si è semplicemente adeguato il prezzo e il titolo alle nuove azioni, all'esercizio dei diritti e quindi alla diluizione dovuta all'aumento di capitale. Non ci spiegavamo gli andamenti dei giorni precedenti, ma quello di oggi è più comprensibile, si sta gradualmente allineando e quindi è un movimento comprensibile. Non era comprensibile il più 20 o quel che è stato dei giorni precedenti, e quindi ci siamo. Tra l'altro vorrei spendere una parola così a scopo proprio sì, divulgativo, ma anche un po' istituzionale. Insomma, non si capisce perché in Italia si continua a fare aumenti di capitale a prezzi di ingegneria finanziaria. Nei paesi diciamo più vicini al mercato, il prezzo dell'esercizio dell'aumento di capitale è l'ultimo prezzo fatto il giorno prima della delibera dell'aumento di capitale. Non si capisce perché qua ci si debba fare queste sorte di partite a scacchi o non so cosa per stabilire a che prezzo devono essere messe le nuove azioni. Il prezzo è il prezzo di chiusura il giorno prima, non si capisce perché in Italia non si può fare. Guarda, devo dire che sono d'accordo con lei, nel senso che poi i prezzi fissati, appunto, come lei ha chiamato, con ingegneria finanziaria, non si capisce quale sia la matrice, mentre uno dovrebbe prendere l'ultimo prezzo un giorno prima dell'aumento di capitale e dire: questo è il prezzo dell'aumento di capitale, chi vuole concorrere ha questo prezzo per le azioni. Invece sulla Popolare di Milano, requisiti aggiuntivi patrimoniali, come lei diceva correttamente, Banca d'Italia ha tolto gli add-on. Cosa sono questi add-on? Spieghiamolo a tutti perché il titolo sale così tanto. No, sai perché improvvisamente, nel senso, tolta questa norma che richiedeva un maggior capitale alla Popolare di Milano, tra l'altro, Milano avere un courtier one, diciamo, tiracchiato poco sopra il 7%, arrivati a, adesso, davanti a me, ma insomma siamo al 9,3, 9,4, mi sembra un numero così, e quindi questo la riporta in un'area di assoluta salvaguardia, diciamo. Moncler più ne 40, Uniposai più ne 30, Atlante più 0,40, Saipem meno 3%, e ancora Autogrill meno 3, A2A meno 3, Buzzunice meno 2,60, Prismi almeno 2,30, Enel meno 2 come Mediolanum. L'1,70 lo perde Azimut e anche Tenaris, l'1,50 CNH Industrial. Il miglior titolo, beh, la Popolare di Milano dopo e anche Cementir Holding con un più 8%. Peggior titolo, il Monte dei Paschi ovviamente, poi Class Editori meno 15%, Seat Pagine Gialle meno 5,90%. Grazie e buon lavoro. Grazie, come sempre. Allora, il dato sul PIL americano, nel primo trimestre si è contratto, è la terza lettura, cioè la terza volta che lo correggono, che lo vanno a rivedere, si è contratto nei primi tre mesi dell'anno del 2,9%. La prima stima era di un meno 1%, su cui, come raccontammo, aveva pesato un inverno rigido, e ricordo che anche il quarto trimestre si è chiuso con un meno 2,6%. È la contrazione del PIL maggiore, questa oggi comunicata, dal 2009. Ed è la differenza tra la seconda e la terza lettura la più ampia dal 1976. C'è una spesa più debole, se ben visto, per la sanità rispetto a quanto atteso, e anche la spesa dei consumatori è cresciuta meno delle attese. La spesa dei consumatori americani vale i 2/3 del PIL statunitense, tant'è che la Casa Bianca dice: attenzione, la ripresa dalla recessione resta incompleta. Mario Platero, corrispondente del Sole 24 Ore dagli Stati Uniti, buonasera. Eccoci, buonasera. Come mai si sono sbagliati così tanto? Cioè, tra la seconda e la terza lettura, abbiamo detto appunto, era dal 1976 che non c'era una stima così diversa. E comunque anche tra la prima e la terza, da un meno 1 a un meno 2,9, insomma, tanta roba. Che cos'è stato sopravvalutato a questo punto, al di là dell'inverno rigido che abbiamo spiegato molte volte essere uno degli elementi? Ma guarda, una delle cose che è arrivata più in ritardo, per questo ci mettono qualche tempo, questa è l'ultima variazione, è l'ultima, diciamo, correzione del dato rispetto a quando è stato comunicato, e perché nel frattempo arrivano dati economici più completi o dati economici che ancora non erano stati calcolati. In questo caso uno degli impatti è stato quello delle scorte di magazzino. Ecco, ci si è accorti che c'erano dei numeri molto diversi rispetto a quelli che erano stati computati all'inizio sulla base di stime, dovuto anche a quello che era successo nel corso dei mesi invernali durissimi, come ricorderai, quando abbiamo avuto anche il vortice polare addirittura. E dunque c'è stato quest'ulteriore correzione che porta, come tu stesso hai detto, a meno 2,9%, un dato pessimo naturalmente. Ecco, credo però che sia importante, Sebastiano, guardare anche in avanti più che guardare indietro, e i mercati sono relativamente tranquilli, non si intravede in questo dato così negativo un seme per un peggioramento della ripresa americana nei prossimi trimestri. Ho parlato con alcuni economisti questa mattina, sono tutti orientati da qui alla fine dell'anno per tassi di crescita che torneranno su quella, chiamiamola, normalità sostenibile intorno al 2,5-2,8%. Questo perché? Perché l'ambiente di fondo resta favorevole, i tassi di interesse sono bassi, la brusca o comunque il rallentamento delle manovre di acquisto sul mercato da parte della Federal Reserve non ha prodotto quell'impatto che molti temevano. Ricorderai che quando se ne parlava si diceva beh, ci sarà questo impatto tremendo, i tassi di interesse andranno alle stelle e quindi l'economia ne soffrirà. In realtà le dinamiche sono state molto diverse, i tassi di interesse restano molto bassi. Per rassicurare i mercati, la Yellen la settimana scorsa ha detto che non si pone dei limiti per l'andamento dei tassi a breve. Scusate, ma qui con l'estate vengono anche i raffreddori. Non ci saranno dei limiti, ha detto, per i tassi a breve, e quindi questo ha rassicurato un pochettino i mercati. La previsione è che l'economia americana continuerà a tirare e ti aggiungo, continuano ad esserci notizie di scoperte, di nuovi prodotti, di innovazioni. La più importante l'abbiamo data questa mattina sul nostro sito, è la decisione americana di aprire le frontiere alle esportazioni di petrolio non raffinato. Sì, no. Per cui tu dici, sì, c'è stata una contrazione, però tutto sommato la strada presa non viene cambiata, cioè che l'America stia uscendo, seppure ogni tanto con qualche stop and go, dalla grande recessione, è una strada abbastanza segnata, se ho ben capito, in positivo. Sì, direi che per ora siamo lungo quella strada, c'è stato questo singhiozzo, c'è stata questa brusca pausa, però non dimentichiamo che il tasso di disoccupazione ha continuato a scendere anche nei mesi difficili, non dimentichiamo che l'inflazione resta sotto controllo, non dimentichiamo che il sentimento dei consumatori, pur con alti e bassi, resta generalmente positivo e favorevole. C'è stato, è vero, un momento di difficoltà nel settore immobiliare, e il settore immobiliare è stato molto importante per fare presa, diciamo, sulla ripresa degli ultimi anni. Ma direi che l'America, per tornare alla tua domanda, ha chiuso con la grande recessione, ha chiuso già da molti mesi, siamo ormai in una nuova fase, sono molto più avanti dell'Europa, proprio l'altro giorno se ne parlava. Gli Stati Uniti hanno cominciato le loro manovre espansive molto prima dell'Europa, noi siamo 2 o 3 anni in ritardo rispetto a quello che hanno fatto gli Stati Uniti, se ce ne fossimo accorti prima o se avessimo agito prima forse oggi saremmo in condizioni migliori, ma a questo punto si tratta di gestire un'economia che soffre più dalle concorrenze globali, soffre più dalle dinamiche del cambiamento della concorrenza, che non dalle origini della crisi, quindi si sta aggiustando, molti posti di lavoro non torneranno, ma ne arriveranno di nuovi come ne sono arrivati, e del resto sono stati creati quasi 8 milioni di posti di lavoro negli ultimi anni. Beh, certo, un conto è dire che poi la concorrenza resti, il mondo è cambiato, non è che qua usciamo dalla crisi o da questa grande recessione, come è meglio la chiamano gli americani, e torniamo al mondo del 2006. Questa è un'illusione che spesso contestiamo. Il mondo nel frattempo si è mosso, e chi pensa che la fine della crisi voglia dire tornare a fare quello che faceva prima prenderà una cantonata e una musata disastrosa. Lo dico anche, così chiudiamo da dove eravamo partiti, ai dipendenti, ai burocrati, ai dirigenti, ai parlamentari dell'Assemblea regionale siciliana: svegliatevi prima che sia troppo tardi, il mondo è cambiato, anche lì dovreste dimostrarlo, altro che 240.000 euro di tetto massimo. Grazie Mario Platero, in collegamento grazie con noi da New York. È veramente tutto per questa puntata, e da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente. Fincantieri vi ha presentato Focus Economia.